Sì, ti faccio sentire? Sì, una bella testata contro il mobile. Sì, ti faccio sentire? Sì, una bella testata contro il mobile. Senti? Hai sentito? Mi fa male la testa adesso? Va bene, amore, va bene. Diventerà grosso e forte. Ma dopo io mi metto la pomata. Brava, brava. Allora tirane un'altra due, dai, così proprio per finire in bellezza. Sì, amore mio. Senti, senti forte. Hai sentito? Senti, senti forte. Senti. Hai sentito? Sì, amore, ti amo.